Italia in controluce. 13:32 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi, gentili ascoltatori, l'appuntamento di Radio 24 come ogni giorno a quest'ora con le storie della cronaca, grandi e piccole, che raccontano la nostra Italia in controluce. Oggi torniamo in Piemonte sul dopo voto per capire se sulla vittoria della Lega e del suo candidato Roberto Cota la sconfitta della Bresso abbia giocato un ruolo la questione piemontese per eccellenza, cioè la TAV. Il PD spiazzato dalla valanga degli anti-TAV, scrive infatti oggi La Stampa. C'è la lista Grillo al 20% nella Val di Susa, e il PDL e la Lega che prendono un sacco di comuni, e il PD che, non dico che avesse fatto della TAV una bandiera, ma insomma di questo faceva parte il suo programma, rimane invece al palo. Che cosa è successo? Cominciamo a tirare in ballo Paolo Piacenza, buongiorno. Buongiorno. Che oggi ha seguito tra l'altro la conferenza stampa di Chiamparino a Torino. Che cosa si vede, Paolo, andando a guardare i dati del voto nella Val di Susa relativamente a questa questione? Andando a guardare i dati si vede proprio quello che hai detto tu, sostanzialmente il 20% dei valsusini ha scelto di votare la lista dei grillini con una certa convinzione, ed è anche questo uno dei motivi per cui nella provincia di Torino, la vera roccaforte del centrosinistra, sono mancati alla fine quei voti determinanti a Mercedes Bresso per tenere la poltrona di presidente della regione. La stessa presidente oggi in un'intervista alla stampa sulle pagine locali lo riconosce e dice che tra l'altro oltre a quei voti sono mancati i voti anche di una parte della sinistra radicale che ha adottato il meccanismo del voto disgiunto, cioè ha scelto per lo 0,8%, ma si tratta di una percentuale sufficiente, di sostenere il proprio partito, che era tra i partiti che sostenevano Mercedes Bresso, ma di scegliere come presidente Davide Bono, il leader dei grillini. Questo 0,8% anche soltanto, non dell'area dei grillini, ma dell'area proprio della sinistra radicale, è stato sufficiente su tutta la regione a comportare una sconfitta della Bresso, ed è evidente che qui la questione è centrale, è quella della TAV. C'è però anche un'altra lettura su questa vicenda della TAV, che è quella fatta dal sindaco Chiamparino oggi. E cosa dice Chiamparino? Chiamparino dice sostanzialmente che invece a suo avviso sulla TAV la scelta è stata giusta, quella di avere il coraggio di dire di sì con chiarezza. Anzi, lui ha detto proprio esplicitamente poco fa in conferenza stampa, dovevamo farne di più di manifestazioni sì TAV. Secondo Chiamparino, l'analisi che Chiamparino ha fatto è basata anche qui sui numeri, lui dice a Torino noi abbiamo distaccato l'avversario del 17%, quindi non si può dire che il centrosinistra a Torino e nell'immediata area torinese non sia fortemente radicato. Il problema è invece il territorio, sia il resto della provincia di Torino, ma soprattutto il resto del Piemonte, dove sostanzialmente il centrosinistra è assente. Chiamparino pone quindi la questione di tornare sul territorio, e anche un'analisi simile fatta a quella fatta oggi da un protagonista del Piemonte come Carlo Petrini, del Piemonte, che è presidente di Slow Food Internazionale, che appunto dice che sostanzialmente il centrosinistra si è dimenticato dei contadini e pensa solo agli operai. Questo non so se si possa sintetizzare così il suo pensiero, però sicuramente la questione di un ritorno non solo sul territorio della grande città, ma anche della provincia, delle province esterne, quindi Novara. Insomma, due letture mi pare di capire diverse, Bresso e Chiamparino, su quello che però è il fatto di fondo, cioè la realizzazione della TAV e come si è intrecciata con il risultato del voto di domenica e lunedì in Piemonte. Grazie Paolo Piacenza, su questo argomento ci fermiamo qua. Italia in controluce. Elezioni provinciali, si votava anche all'Aquila, tra pochi giorni tra l'altro sarà un anno esatto dal terremoto. La presidente della provincia Stefania Pezzopane del centrosinistra per 12 mesi, come ricorderete, in prima linea col sindaco nel post terremoto, ha ottenuto il 45,3%, è stata sconfitta dal candidato del centrodestra del Corvo che ha ottenuto il 53,4%. Poco fa l'abbiamo raggiunta al telefono. Come valuta questa mancata, diciamo, riconferma, un po' come uno schiaffo che i cittadini le hanno voluto dare? Perché? All'Aquila io ho stravinto, nella zona del cratere ho vinto bene, all'Aquila ho quasi il 60% di percentuale, e quello che invece mi è mancato è il voto negli altri territori. La provincia è molto grande, ha 108 comuni, e il resto del territorio, la Marsica in contare ha coagulato il suo consenso su l'altro candidato e poi eletto presidente, che ha fatto molto appello al voto marsicano, al voto campanilista. In più ho pagato le debolezze del centrosinistra, ho pagato questa campagna elettorale che non ci è stato consentito di fare sui temi locali, ma attraverso scontri negativi, a mio giudizio molto negativi, lo scontro sui temi della giustizia, lo scontro che c'è stato con le due manifestazioni di piazza che hanno aiutato soltanto Berlusconi a riaffermare la sua leadership. Cioè lei dice in pratica un voto più, non so come dire, più politico, forse anche più ideologico, candidato avversario rispetto a lei ha avuto il traino dell'effetto mediatico anche di Berlusconi, di all'Aquila, c'è stato anche questo. No, sull'Aquila no, questo è il paradosso. Se analizzate i voti, io sulla città dell'Aquila, dove Berlusconi è venuto 25 volte, ho vinto io con il 58% di percentuale. Nell'ultima settimana di campagna elettorale si è anche fatto da parte della PDL un volantino in cui si metteva a raffronto l'efficacia del governo Berlusconi e la inefficacia sul terremoto dell'Umbria del governo Prodi. Io l'Aquila ho vinto. Però diciamo nell'ambito poi della provincia, come mi ricordava lei, i voti sono mancati. Lei come si sente oggi? Più svuotata dopo tutto questo lavoro, questo tempo che è passato, l'esperienza del dopo terremoto, oppure anche un po' amareggiata per questo risultato? Ma io sono amareggiata perché pago le debolezze del centro-sinistra, pago una situazione devastante nella mia città e nessuno sa che migliaia di persone sono ancora fuori nella costa, negli alberghi. Lei parla di debolezza del centro-sinistra che lei in qualche modo ha pagato, perché come ricorda sulla sua persona c'era Convergenza, sondaggi, all'Aquila l'hanno votata, sì, poi sì. In provincia il voto si è disperso. Qual è la debolezza del centro-sinistra di cui lei parla? Una linea politica incerta, una incapacità di entrare nei ceti moderati, nei ceti medi della nostra società, un eccesso a volte di dialogo e di promozione politica su temi che alle persone interessano poco. Per esempio? Ma penso che Berlusconi vada attaccato per la crisi economica, per le problematiche sociali, per la crisi industriale, e credo che questi siano i temi che magari interessano alla gente. E quindi non sulle vicende giudiziarie o tutta quella roba. Si finisce, diciamo, di fare così, si fa il suo gioco. Italia in controluce. E ora ci spostiamo in Lombardia, una delle sfide che attende la regione, alla cui guida è stato appena riconfermato per la quarta volta Roberto Formigoni, è la gestione dell'Expo 2015, la grande fiera della sostenibilità alimentare che Milano ospiterà, un grande affare per la città che calamiterà senz'altro molte risorse economiche, ma quanto vale davvero e quanto ricadrà sulla popolazione? Valentina Furlanetto ha provato a fare i conti. Business o un flop? L'interrogativo per 5 anni è destinato a rimanere nell'aria. In cosa si trasformerà per l'economia di Milano e della regione l'Expo 2015 non è ancora dato saperlo. Intanto fioccano le previsioni degli organizzatori. L'evento, dicono, porterà oltre 20 miliardi di euro di investimento in infrastrutture. Il fatturato del mondo imprenditoriale milanese dovrebbe aumentare poi di 44 miliardi. Ma queste, per ora, sono solo promesse. Saranno mantenute? I lombardi sono ottimisti. Secondo uno studio della Camera di Commercio di Brianza e Monza, il 73% considera l'appuntamento una grande occasione. Cresce il numero degli ottimisti, fra i quali Roberto Mazzotta, fino a un anno fa presidente della Banca Popolare di Milano, al microfono di Dario Ceccarelli. Io penso che tutto vada sempre colto come un'opportunità. Io non sono in grado di valutare qual è l'effettiva importanza di una manifestazione in sé come l'Expo, visto che non non siamo più nella fase industriale in cui le Expo internazionali avevano una certa funzione, ma siamo in un altro mondo. Però è un'opportunità, perché fissa una data e consente che le energie si possano raccordare e galvanizzare per raggiungere degli obiettivi di sviluppo e di apertura della città, della sua vita sociale e della sua vita economica. Si prevede che nei 6 mesi dell'Expo arriveranno a Milano 29 milioni di turisti. Tutto ha un costo però, e infatti per la realizzazione dei 7.000 eventi previsti serviranno 892 milioni di euro. Abbiamo chiesto al professore Jérôme Massiani, economista specializzato nell'economia delle infrastrutture dell'Università di Trieste, di analizzare con noi il rapporto costi-benefici. Da quando è stata accettata la candidatura di Milano, la fisionomia del progetto ha un po' cambiato, e se lei mi dicesse oggi quali sono i costi, io sarei in difficoltà. Per quanto riguarda i benefici, quello più ovvio è quello della spesa indotta dalle presenze di turisti stranieri, sulla quale c'è grande incertezza, perché insomma, finché non c'è una precisa visione di tutto il marketing e di tutto lo svolgimento di questo Expo, la cosa è un po' difficile. Sugli altri benefici legati ad esempio al cosiddetto l'ascito dell'Expo, è tutto il problema di sapere se questo lascito ha un valore positivo o negativo, perché se si lasciano cose che servono, questo ha un valore positivo; se si lasciano cose che poi vanno ad arrugginire o comunque non hanno una fruizione, questo diventa un costo, allora è un lascito che è meglio non avere. Per quanto riguarda i posti di lavoro che l'Expo potrebbe creare, la forchetta va dai 12.000 ai 70.000 posti di lavoro, una forchetta un po' ampia. Sì, girano diverse cifre. Io ho paura che comunque molte di queste stime stanno distorte, nel senso che danno una visione troppo favorevole dell'impatto occupazionale. Uno degli aspetti, ad esempio, è che non prendono in conto, come dovrebbe essere fatto per chi fa questo tipo di calcolo, gli effetti di sostituzione. Una grande parte della frequentazione prevista per l'Expo sarà da italiani, e dunque bisogna chiedersi se gli italiani che vanno lì non hanno un altro consumo al quale questo si sostituisce. In questo caso gli impatti occupazionali andrebbero calcolati al netto di questo sostituto. Ma alla fine ci saranno vantaggi economici? L'importante è di sapere se alla fine abbiamo un totale positivo o negativo. E io cito un recente risultato che è stato ottenuto anche su un'analisi ex post delle Olimpiadi di Sydney. L'impatto economico di avere le Olimpiadi a Sydney sarebbe in rosso. Dopo il dibattito può essere che comunque gli abitanti di Sydney sono stati contenti di aver avuto le Olimpiadi, però a priori non si può dire che il risultato di questo tipo di valutazione sia positivo. È tutto per Italia in Controluce, un programma, ve lo ricordo, con il coordinamento di Daniele Biacchesi, regia Carmelo Lauricella. Ci sentiamo domani, vi ricordo anche il nostro indirizzo controluce@radio24.it. Buona giornata da Alessio Maurizio.